Terra in vista. L'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici. Penarelli che suonano su dei fogli. Con questa musica apriamo un viaggio che si chiama Terra in vista, l'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici. Io sono Federico Taddia, ma non viaggerò da solo, perché con me c'è Telmo Pievani, filosofo della scienza. Ciao Telmo. Ciao Federico. 10 puntate, 10 viaggi per raccontare l'Expo. Abbiamo scelto 10 parole, ogni parola ci accompagnerà e tenteremo di sviscerare tante curiosità su questa singola parola. Si parte dal cibo, che è parola importante, vero Telmo? Beh sì, è la chiave di lettura da cui tutto comincia, il nostro legame con la vita. E abbiamo chiesto ai nostri giovani ascoltatori di spiegarci che cosa sia il cibo. Yuhu! Per me il cibo è qualcosa che si mangia. Le lasagne. Secondo me il cibo è una cosa che ti nutre, che ti dà energie. Dipende che cibo, ad esempio la frutta cresce dagli alberi, invece ci sono certi cibi confezionati, tipo il pane, che è fatto nell'industria. Per esempio un piatto di pasta al sugo è un alimento che se tu non mangi poi può essere anche che muori. Una sostanza che serve per fare vivere l'uomo. È quello che mangiamo, per esempio il pollo, i carciofi. Tipo la frutta, tanti sali minerali che servono per crescere, per il calcio e fa bene alla salute. Tipo le lasagne, c'è l'azienda delle lasagne. E poi la carne, c'è quelli della carne. Il mio cibo preferito è la pizza, l'hamburger, il gelato, il bacon, la piadina. Per me il cibo è la vita. Il cibo è la vita, oltre agli hamburger, le patate fritte, al lungo elenco di cibi preferiti che abbiamo ascoltato dai nostri giovani ascoltatori. Telmo, qual è la corretta definizione di cibo? Beh, i bambini sono stati bravissimi, perché il cibo è tutto ciò che noi mangiamo, ma anche che beviamo, spesso non ce lo ricordiamo, per sostenerci, per vivere, ed è sostanzialmente ciò che ci lega a tutto il resto della natura. Noi spesso lo dimentichiamo, il cibo è il nostro legame di dipendenza con la natura, la nostra grande relazione con il luogo che ci ha, la natura che ci ha portato fino qui, e le scelte che noi facciamo quando mangiamo, hanno ragione i bimbi, condizionano la nostra salute, ma non dimentichiamoci che le scelte che noi facciamo quando mangiamo cambiano anche il mondo e cambiano la natura là attorno. Se facciamo delle scelte sbagliate, per esempio cibandoci di pesci che vengono uccisi troppo, pescati troppo negli oceani o anche solo nel Mediterraneo, contribuiamo spesso senza volerlo a cambiare il mondo. Quindi il cibo è una grande relazione, e noi esseri umani mangiamo veramente di tutto, perché se ci pensi mangiamo le piante, mangiamo i semi, mangiamo i tuberi, mangiamo le radici, mangiamo i frutti, giustamente come ho detto i bimbi, mangiamo gli animali, chi di noi non è vegetariano, chi di noi non è vegano mangia anche i prodotti degli animali, quindi latte, uova, mangiamo i funghi, mangiamo anche i batteri, perché se no non ci sarebbe il pane, la birra, cose buonissime da mangiare che abbiamo grazie ai microorganismi, quindi sostanzialmente mangiamo di tutto. E gli astronauti in futuro mangeranno cibi sintetici addirittura. Il cibo quindi grande protagonista di Expo, e oggi lo conosceremo meglio. Adesso ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con Terra in vista. Filastrocca, mangia bambini. Cuocete piano piano coscettine di pollo, bambine di vaniglia, bambini caramello. Le mamme fanno i figli con l'acqua e la farina. Forse viene una pizza, ma forse una bambina. Il mondo è un pentolone. Chi cresce si trasforma. Crescete piano piano e cambiate la forma. Budini con gli occhiali, hamburger coi capelli, le bambine patate, i bambini piselli. Ma fuori cosa c'è? L'orco con la forchetta? È il mercato coi denti là fuori che vi aspetta? Cuocete piano piano, ma se trovate quello, correte forte forte! Coscettine di pollo. Terra in vista. Eccoci qui quindi con la prima domanda di oggi di Terra in Vista. Si parla di cibo e questo è il quesito. Dove nasce tutto il cibo del mondo? Dove nasce tutto il cibo del mondo? Lo abbiamo chiesto a Stefano Bocchi, docente di agronomia e coltivazioni erbacee presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Università degli Studi di Milano, è anche il curatore scientifico del Parco della Biodiversità di Expo 2015. Ciao Stefano, da dove nasce questo cibo del mondo? Da dove nasce e dove nasce? Da dove nasce? Dal più grande incontro che possa essere immaginato, cioè dal sole che incontra l'acqua e una parte dell'aria, e dove nasce quindi questa grande cucina mondiale. Possiamo immaginare un fornello che è il sole, una padella dove si incontrano l'acqua e la CO2, l'anidride carbonica, e improvvisamente nasce lo zucchero, gli zuccheri che poi fanno partire tutte le nostre, diciamo, catene alimentari o filiere alimentari e tutto quello che noi mangiamo. Così nasce. Insomma, una grande ricetta con questi. Grande ricetta, grande cucina che tutti i giorni per fortuna funziona, a partire naturalmente dall'energia del sole, quindi speriamo che non finisca mai in sostanza. Ma dobbiamo anche ringraziare le piante, perché ho descritto rapidissimamente la fotosintesi che alcuni conoscono, ma che ci dà poi la possibilità di mangiare tutti i giorni. Ma questa fotosintesi di cui tutti parlano, Stefano, ci dici in due parole cosa consiste? Ma appunto, diciamo che dobbiamo immaginare piccolissimi corpuscoli che sono i cloroplasti che le piante hanno al loro interno, e questi sono capaci di catturare l'energia del sole, che è un'energia fisica, e trasformarla in energia chimica che noi riusciamo a utilizzare, altrimenti moriremo di fame, diciamo. Questo è quello che fa la scienza, questo è quello che fa la chimica. Il contadino poi non raccoglie cellule o particelle, no, o porzioni di clorofilla. No. Va a seminare altro, vero? Va a seminare, diciamo, piante, o anche, io dico meglio, colture, quindi piante che vengono collocate nei nostri campi, nelle nostre aziende agrarie, e sono colture di diverso tipo, cioè noi diciamo i cereali che ci offrono energia soprattutto, cioè gli zuccheri, l'amido e altri tipi di zuccheri, altre piante come le leguminose da granella come pisello, cece, lenticchia, fagiolo eccetera, che ci danno integrazioni appunto di proteina, e tante altre piante che ci danno integrazioni di vitamine, fibra e tante cose. Quindi nasce così la biodiversità, quella che adesso discutiamo anche in Expo, cioè la grande ricchezza che viene utilizzata in agricoltura da tanti punti di vista, quindi per le colture che ci danno alimenti, ma anche per i servizi cosiddetti ecosistemici, cioè per tutto quello che le piante fanno per noi, fino ad arrivare ai bei paesaggi che l'agricoltura è sempre riuscita a costituire, ad offrire a tutti noi. Si chiama Zolle il tuo ultimo libro, Storie di tuberi, graminacee e terre coltivate, pubblicato con Raffaello Cortina editore. E Zolle perché? Qual è il mondo che si nasconde in una zolla? Ma Zolle è un po' un'immagine sintetica di, diciamo, della fertilità dei terreni, cioè la zolla è un aggregato, no? È un qualche cosa che tiene insieme tutti i microrganismi che lavorano nel terreno per fare tutte le reazioni, l'acqua che c'è nel terreno, le radici e tutto, quindi è un'immagine che fa capire come l'agricoltura sia un qualcosa di molto complesso, ma in fondo anche molto semplice. E Stefano, qual è il tuo prodotto preferito? Cioè proprio la pianta, è un tubero, una graminaccia, è un legume, hai una pianta preferita? Sì, diciamo la mia storia d'agronomo è legata al riso, che è una cultura molto bella, che arriva dall'Asia, arriva da noi e fa anche la ricchezza della nostra pianura, ed è, diciamo, anche questa emblematica, cioè si sposa l'acqua con la terra e con appunto questo cereale, e cambia il paesaggio, cioè dalle primissime mosse quando l'acqua rispecchia il cielo, quindi dall'azzurro del cielo fino ad arrivare al verde intenso di luglio, poi al giallo sempre più scuro di agosto, settembre, quando si raccoglie. Ed è in tutto il mondo un po' un emblema di ricchezza dovuta appunto all'insieme di queste risorse naturali. Certo, ed è il cibo che continua a essere questo collante tra l'uomo e la natura. Grazie davvero Stefano Bocchi, ciao e buon terra in vista. Grazie Telmo. Ciao Stefano. A presto, ciao. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Giappone. Sapete cosa sono i Satoyama? Sono zone agricole che si trovano sulle colline del Giappone e tradizionalmente sono usate per coltivare il riso, il bambù e altri prodotti tipici. Sono talmente importanti da essere considerate patrimonio culturale del Giappone. Ma la cultura alimentare giapponese ha anche altre ricchezze, fatte di riso, gusto umami, pesce crudo e fermentazioni. Se imparate a usare le bacchette, ce n'è davvero per tutti i gusti. E dopo gli Expo Pup, le 100 cose da sapere per stupire mamma e papà, torniamo a parlare di cibo e lo facciamo con uno dei tanti racconti di Telmo Piovani. Telmo, la parola cibo racchiude tante storie, quale hai scelto? Guarda, ho scelto la storia di uno scienziato, di un uomo molto particolare. Era russo, visse circa un secolo fa a Mosca e aveva una grande passione, era un botanico, quindi si occupava di piante, di agronomia, ed era un grande viaggiatore, viaggiò in tutto il mondo con una passione che lo corrose per tutta la vita, quella di raccogliere tutti i semi di tutte le piante del mondo, perché voleva capire da dove erano nate le piante che poi noi mangiamo e che troviamo nel piatto, dove è nato il pomodoro, dove è nata la melanzana, dove è nata la patata. E lui andò in giro e scoprì i centri di origine di tutte queste piante. Poi cosa fece? Tornò in patria e nella sua città, dove lui poi andò a lavorare, che è Leningrado, fondò un istituto dove andò a mettere tutti questi semi. Poi la sua storia prese una piega un po' triste, perché a quel tempo c'era la guerra e era la Russia di Stalin, che si combatteva contro il nazismo, e la città di Leningrado viene cinta d'assedio. Vavilov cade un po' in disgrazia perché viene sospettato di contatti con il nemico, con gli inglesi in particolare, e viene incarcerato con condizioni molto dure, tant'è vero che non riuscirà a sopravvivere ai lunghi freddissimi inverni russi e morirà proprio nel gennaio del 43. Ma la storia ha un finale incredibile, perché nel frattempo i suoi collaboratori, i suoi ricercatori, continuano a tenere i semi ben nascosti nell'istituto a Leningrado. I nazisti arrivano, circondano la città e la minacciano, e loro però difendono questi semi. E la cosa incredibile è che loro avrebbero potuto benissimo prendere questi semi e piantarli per terra e fare crescere delle piante anche molto nutrienti, molto succulente. C'era la fame a quel tempo dentro la città, la carestia. E invece, per rispettare il volere del loro maestro, decidono di conservarli anche a costo di morire di fame. Quando la città viene poi liberata, dentro l'istituto di questo scienziato di Vavilov, 14 ricercatori vengono trovati addirittura morti di fame. Pur di non sprecare questi semi, avevano deciso di sacrificare la loro vita. Io scherzosamente racconto sempre questa storia ai miei collaboratori a Padova e dico: vedete, questo è un esempio di dedizione nei confronti del proprio maestro, ma loro non mi prendono tanto sul serio. per fortuna. Questi sono i racconti di Telmo Piovani. Invece adesso è il momento di giocare con il cibo, è il momento di Expo Kids. Expo Kids, dire, fare, giocare. Si può giocare con Expo in ogni puntata. La nostra parola cercheremo anche di declinarla con delle attività pratiche, in particolare attività artistiche. Lo facciamo con Alessandra Falconi, atelierista del metodo Bruno Munari e collaboratrice del blog disegnangolo.it. Ciao Alessandra, benvenuta a Terra in Vista. Ciao Federico. Ciao Alessandra. Allora Alessandra, cosa hai preparato come prima attività? Si parla di cibo, come si può tradurre il cibo in un qualcosa di artistico? Sono partita da un'attività secondo me molto piacevole che si chiama Rose nell'insalata ed è di Bruno Munari, quindi sì, Partiamo proprio da un grande classico. È un'attività molto bella perché intanto si può fare mentre i genitori cucinano e la si fa con gli scarti della frutta e della verdura, quindi posso prendere un gambo dell'insalata e lo utilizzo come timbro, mi devo solamente preoccupare di avere un foglio di carta, di quelli banali da stampante, da fotocopiatrice, il colore, la tempera, quella che si usa abbastanza tranquillamente in tutte le case, e quando la mamma ha finito, o il papà, ha finito di fare l'insalata, io utilizzo il gambo che rimane per immergerlo nel colore e timbrare il foglio. E gli effetti sono molto belli perché dall'insalata nascono le rose, dai cavoletti possono nascere degli alberi, addirittura da quelli di Bruxelles io posso fare un piccolo bosco sul mio foglio. Ma quindi devo intagliarli un po' questi gambi o vanno bene così al naturale? No, vanno bene al naturale. Il bimbo aspetta che mamma e papà abbiano finito di cucinare, di preparare le loro verdure, e nell'attimo in cui loro sarebbero pronti a gettare il tutto nel bidone dell'organico, lo salvano per farlo diventare un nuovo strumento. Fantastico. Quindi al posto di un pennello, che sicuramente i bambini conoscono molto bene, il gambo dell'insalata diventa uno strumento per disegnare. Grandiosa, insomma, vedi? Sono le forme della natura. Sono le forme della natura, sì, esatto. Quindi un'ottima intuizione. Insomma, Bruno Munari, un maestro in questo. Alessandra, so che vuoi segnalarci anche un particolare negozio, vero? Sì, mi è piaciuto davvero molto, è il 159 di Oxton Street a Londra, e visto che siamo in tempi di vacanze, perché no, una vacanza a Londra ci sta sempre, perché i bambini possono comprare il rifornimento da mostro, ad esempio c'è il cerume a dadini anche in versione da passeggio, oppure il sale realizzato con le lacrime delle risate, ma la cosa bella è che la lacrima deve arrivare da una risata vera, di gusto, quelle che di solito solamente i bambini gli vengono. Fantastico, grazie davvero ad Alessandra Falconi. Tutte queste informazioni e molte di più le potete trovare sul blog disegnangolo.it. Ciao Alessandra, alla prossima puntata. Ciao a presto. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con Terra in Vista. Chiccolino, Chiccolino, dove stai? Sottoterra, non lo sai? E là sotto non fai nulla? Dormo dentro la mia culla. E se tanto crescerai, Chiccolino, che farai? Una spiga metterò, tanti chicchi ti darò, fresco pane diverrò. Terra in Vista. Ancora Terra in Vista, ancora l'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici Federico Taddei e Telmo Pievani per questo viaggio, per raccontarvi l'Expo. E Telmo, siamo partiti dal cibo perché per nutrire il pianeta forse è l'elemento fondamentale. Beh sì, siamo partiti dal cuore del tema di Expo, ma ci sono anche tantissimi altri temi legati a questo. L'acqua è a suo modo un cibo, e poi il cibo è legato alla sostenibilità, alla sua evoluzione, al clima e al futuro. Tante parole che appunto affronteremo nel futuro, nelle prossime puntate di Terra in Vista. Torniamo al cibo e ci torniamo con un'altra domanda posta da un bambino. Quando un cibo è naturale? Bella domanda. Quante volte ai nostri figli diciamo: mangia quello che è sano, mangia quello che è naturale, mangia quello che è biologico. Ma quando un cibo è naturale? Per rispondere a questa domanda abbiamo convocato Beatrice Mautino, giornalista, scientifica e coautrice del libro Contro Natura, edito da Rizzoli. Ciao Beatrice, benvenuta a Terra in Vista. Ciao Federico e ciao a tutti i vostri ascoltatori. Allora, a te il compito di rispondere a questa domanda: quando un cibo è naturale? Allora, intanto diciamo che è una domanda molto difficile. Quando io penso a cibo naturale, la prima cosa che mi viene in mente è una mela raccolta direttamente dall'albero, comunque un qualcosa che noi troviamo in natura già pronto. Mentre invece se penso a qualcosa di artificiale, mi vengono in mente alcuni lecca-lecca, alcune bevande di quelle molto, molto colorate che si vede che non esistono in natura. Ci sono però delle situazioni in cui capire che cos'è naturale e che cos'è invece artificiale non è così ovvio, così immediato. Pensiamo per esempio, sempre per rimanere a cose che crescono sugli alberi, alle clementine, che sono dei frutti come dei mandarini, però non hanno i semi. Ora, è naturale questo frutto che non ha i semi? In realtà è stato prodotto dall'uomo grazie a un lungo lavoro di mutazioni e di selezioni. Ci sono poi situazioni in cui appunto uno va al supermercato, trova una confezione magari di mortadella oppure di cioccolato con su scritto naturale. Sì. Però come può la mortadella essere naturale? Non cresce sugli alberi, no? È prodotta da appunto con macchinari, con lavorazioni, vengono presi appunto i pezzi di carne, cotti, macinati, per cui c'è un lungo lavoro che porta alla produzione di un alimento come quello, ma anche per il cioccolato potremmo fare lo stesso discorso. Perché allora troviamo su queste confezioni la scritta naturale? La troviamo perché cercano di chi li vuole vendere, ovviamente, cerca di venderci un prodotto facendoci pensare che naturale vuol dire in qualche modo buono. Sano, più che, appunto, noi leggiamo naturale e diciamo vabbè, questa è sicuramente migliore di quell'altra che deve essere sicuramente artificiale. E questa associazione tra naturale e buono è molto diffusa, tant'è che viene usata tantissimo dalla pubblicità. Ma è vero che naturale è più buono di artificiale? Anche qui, volendo poi andare a vedere bene nel dettaglio le caratteristiche dei vari alimenti, scopriamo che ci sono alimenti naturali che fanno bene, alimenti naturali che fanno male, alimenti artificiali che fanno bene, alimenti artificiali che fanno male. Per esempio, prendi il latte, sì, che è uno degli alimenti più naturali che esistono, no? Viene munto direttamente dalle mucche. Io quando ero bambina la mia nonna me lo dava fresco, quindi appena munto. Però la nonna, che era intelligente, lo bolliva. Perché? Perché il latte è molto nutriente ed è un terreno di coltura per microrganismi, batteri, per cui se noi lo beviamo direttamente così dalla mucca, magari dopo averlo lasciato un paio d'ore in cucina in una bottiglia, possiamo ingerire alcuni di questi microrganismi e stare male. Il latte che noi compriamo al supermercato, che è sicuramente più artificiale di quello appena munto dalla mucca, è però più sicuro da un punto di vista microbiologico e di quello che appunto ci può far bene oppure ci può far male. Beatrice, senti, una domanda, ma di notte quando le zanzare ci pungono noi usiamo degli spray che a volte hanno scritto sopra naturale, invece la zanzara non c'ha scritto sopra naturale. Alla fine quindi che cos'è più naturale, lo spray o la zanzara? Quando sei lì di notte che la zanzara ti punge è molto più naturale lo spray della zanzara. Anche lì di nuovo è un tentativo di cercare di farci comprare delle cose pensando che siano migliori, magari perché sono state estratte da piante o comunque trovate in natura in qualche modo. Ci sono delle sostanze che sono repellenti nei confronti delle zanzare, quindi è vero che in un certo senso sono naturali, però diventa una questione più filosofica cercare di capire dove mettiamo il limite tra naturale e artificiale. Anche la mela di cui parlavo all'inizio potrebbe non essere così naturale. Un conto è una mela che uno trova in un campo, in un albero selvatico, un conto invece è una mela cresciuta in quelli che vengono chiamati impianti, che sono delle vere e proprie fabbriche di mele, per cui capire che cos'è naturale e che cosa non lo è molto difficile e mi viene da dire che anche poco scientifico. Quello che possiamo fare noi come consumatori quando ci troviamo di fronte a delle etichette che parlano di naturale piuttosto che di artificiale è quello di andare a valutare le caratteristiche di quel singolo alimento lì di volta in volta, quindi capire se quell'alimento che ci spacciano per naturale in realtà fa bene o fa male a prescindere da quello che c'è scritto sulla confezione, anche se è molto difficile ovviamente. La mela di Biancaneve la metteresti tra le naturali o tra le artificiali? Ah, la mela di Biancaneve era magica, quindi è in una categoria a parte. Ottimo. Grazie davvero a Beatrice Mautino, giornalista scientifica, coautrice del libro Contro Natura Rizzoli, grazie per aver gridato con noi, Terra in Vista. Ciao Beatrice. Grazie a voi. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Messico. Il Messico ha una cultura millenaria e una gastronomia molto ricca, fatta di tanti sapori, rituali, tecniche e utensili. Pensate che nel 2010 la cucina messicana è stata addirittura dichiarata patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO. l'alimento simbolo della tradizione culinaria è il mais, utilizzato in Messico già 9000 anni fa. Con spighe, foglie e gambi, gli antichi messicani producevano bevande alcoliche, preparavano zucchero, nutrivano il bestiame e ricoprivano i tetti delle capanne. Le pannocchie, se mature al punto giusto, venivano abbrustolite sul fuoco o macinate fino ad ottenere una poltiglia gialla, grossolana antenata dell'attuale farina da polenta. E dopo gli Expo Pop torniamo ai racconti di Telmo. Telmo, quando si parla di natura o non natura, a volte c'è un termine che è addomesticare, che è un termine legato agli animali. Lo si può utilizzare anche con le piante? Certo, anche con le piante e anche con il cibo. E questa è una storia molto antica, una storia che comincia, pensa, già 11.000 anni fa, quando la famosa era glaciale, quella dei mammut e dei rinoceronti lanosi, finisce. I ghiacci si sciolgono, il clima diventa un pochino più favorevole nel Mediterraneo, ma in tanti posti del mondo, e cominciano a crescere piante che già gli umani avevano imparato un pochino ad utilizzare. Abbiamo trovato delle farine antichissime, per esempio, però lì imparano ad addomesticarle. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu semplicemente, senza sapere niente di come è fatta la pianta, scegli ogni volta la pianta con il frutto che ti piace di più, oppure con i semi che si raccolgono meglio, la mela più dolce di un'altra. E questo è sufficiente perché poi i figli di quella mela assomiglieranno un pochino di più alla mela che piace a te, passano le generazioni, alla fine scompaiono le mele originarie e vengono fuori mele molto simili a quelle che piacciono a te. Questa è una tecnica quasi magica che può far venire fuori, non so, le banane, per esempio, non hanno i semi. Perché le banane non hanno i semi? Perché in realtà all'inizio ce le avevano, ma noi le abbiamo addomesticate in modo tale da farle venire fuori senza semi. Il mais originale era una pianta molto diversa da quella di adesso. Adesso hanno una pannocchia che è lunghissima, siamo stati noi a produrla. E pensa che in alcuni casi siamo stati capaci addirittura di addomesticare delle piante velenose. Pensa che la mandorla, per esempio, al naturale, contiene una sostanza che, se ingerita, diventa cianuro. Quindi praticamente una manciata di mandorle originali possono uccidere facilmente una persona. Però i contadini originari cosa hanno fatto? Hanno osservato che a volte nascono delle mandorle modificate naturalmente, cioè con una mutazione, per cui non sono più velenose. Com'è che se ne sono accorti? Perché le mangiano gli uccelli, e quindi hanno capito che erano invece mandorle dolci e non amare, le hanno selezionate, e da lì in poi è nata la mandorla. Pensa che le melanzane che vengono dall'Africa, le patate, i pomodori, tutte queste piante erano originariamente velenose. A me le mandorle piacciono tantissimo, adesso quando leggerò mandorla naturale starò molto molto attento. È il momento adesso di Expo Kids, si va a giocare con la scienza. Expo Kids, dire, fare, giocare. Dire, fare e giocare, e si gioca con Andrea Vico, giornalista scientifico di Two Science. Vi ricordo www.twoscience.it, il sito per conoscere tutte le attività proposte. Ciao Andrea. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Telmo. Ciao Andrea. Allora, quale esperimento scientifico ci proponi oggi a tema cibo? Allora, agganciandomi un po' al discorso che faceva Telmo sulla geografia del cibo, facciamo una serie di esperimenti a cavallo fra geografia e cibo, in particolare andando a vedere non solo i luoghi di produzione, di coltivazione o di allevamento dei cibi che mangiamo, ma anche e soprattutto i luoghi di confezionamento. Quindi il primo esercizio è quello di, ovviamente tornando dalla spesa grande, magari quella fatta al sabato con tutta la famiglia a zonzo per un grande magazzino, prima di riporre tutto quanto in frigo o nei pensili della cucina, fermatevi, prendetevi un bel book notice e abbiate la pazienza di andare a leggere tutte le etichette che incontrate sul cibo confezionato che avete acquistato, segnandovi fondamentalmente il luogo di origine o il luogo di produzione, che sono due cose non necessariamente ovviamente sovrapponibili. Sì. E spesso capita che il luogo di produzione mi nasconda il luogo di origine dei prodotti. Faccio un esempio molto semplice: se io ho una merendina fatta in Italia, in qualsiasi città italiana, non so da dove viene la farina o non so da dove vengono gli ingredienti che sono stati poi inglobati in quella merendina. Comunque, fate l'elenco di quello che trovate e poi al computer con un normalissimo programma di calcolo delle distanze chilometriche, andate a calcolare la somma dei chilometri percorsi dalla spesa che poi voi avete comprato e che avete portato in casa. In genere è un numero strabiliante. Sì, ci credo. Sì, facilmente una famiglia di 4 persone che fa la spesa per una settimana, 10 giorni, può trovarsi ingredienti che complessivamente hanno percorso anche 3-4 mila chilometri. E questo è un fatto tutto moderno, recente, perché qualche decennio fa sicuramente non c'era così spinta questa industrializzazione del cibo, e quindi tutto veniva prodotto molto più localmente. Il secondo esercizio invece è quello di andare a ragionare, e quindi prendere una mappa della città, dei vostri dintorni, e andare con delle bandierine a segnalare tutti i posti dove ci sono dei mercati rionali, che sono i luoghi dove i contadini della zona, spesso anche stimolati, fortunatamente negli ultimi anni c'è un po' di sensibilità nuova, stimolati dalle varie associazioni di categoria, degli agricoltori di vario segno, tutti si stanno dando da fare, portano direttamente i prodotti coltivati a 30, 40, 50 chilometri, quindi con un dispendio di energia nel trasporto decisamente minore, e soprattutto spesso senza imballaggio, in una cassetta di legno che va e viene tante volte da casa o dal contadino, oppure in un sacco di tela che quindi evita di consumare anche la plastica dell'involucro. E il terzo esercizio, anche questo si riaggancia a quello che diceva Telmo poco fa, è prendere un bel calendario e andare a segnare sul calendario, mese per mese, quali sono la frutta e la verdura di stagione, perché noi abituati a trovare al supermercato praticamente tutto in questo momento dell'anno, le fragole a Natale, le albicocche a ottobre e così via, abbiamo un po' perso di vista la stagionalità della natura. Ovvio che le stagioni nel mondo non sono tutte uguali, quindi quello che per me viene prodotto in Italia a primavera, da qualche altra parte del mondo viene prodotto in un altro mese dell'anno, quindi la frutta in qualche modo rispetta la stagione della sua latitudine, del suo paese, però il problema è di nuovo sempre il trasporto. Se io mi abituo a consumare in Italia le albicocche a ottobre, evidentemente quelle albicocche non sono state fatte in Italia, e quindi di nuovo riappropriarsi di un certo ritmo, che è il ritmo della natura, che a sua volta deriva dall'alternarsi delle stagioni, aiuta a contrastare un po' questa spinta a consumare senza pensare a quello che stiamo mangiando, quello che stiamo comprando, e quindi in qualche modo a rispettare un po' di più l'ambiente e avere una vita un po' più sostenibile. Viaggiare nel tempo e nello spazio per essere più consapevoli, quindi prendete Block Notes e andate a inseguire la vostra spesa. Un grazie ad Andrea Vico, ci ritroviamo nella prossima puntata di Terra in Vista. Ciao Andrea. Grazie, ciao a tutti. Ciao, a presto. Noi adesso ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua. La catena alimentare. Se la balena mangiasse l'elefante, che mangiò l'orso, che mangiò il leone, che mangiò il lupo, che mangiò il falco, che mangiò la rana, che mangiò la pulce, che il microbo mangiò, il microbo potrebbe telefonare alla balena e ringraziarla per l'invito a cena. Terra in vista. Terra in vista, è arrivato il momento della terza domanda posta dai bambini. Sentiamo un po' qual è. Da dove arriva il pomodoro? Non male questa domanda, vero Telmo? Già, le piante fanno lunghi viaggi, anche se apparentemente non si spostano. E noi abbiamo trovato un esperto di cibo e anche di viaggi, anche di origini degli ingredienti, delle materie prime. Diamo il benvenuto a Marino Niola, antropologo della contemporaneità presso l'Università Suor Orsola, ben in casa di Napoli. Ciao Marino, benvenuto a Terra in Vista. Ciao Federico. Beh, insomma, è un bel viaggio quello che ha fatto il pomodoro, vero? Da dove arriva? Arriva dall'America Latina, dal Messico. Addirittura più di 1000 anni avanti Cristo, nella piazza di Tenochtitlan, una delle grandi capitali del Messico, si vendeva la conserva di pomodoro. Quella che noi abbiamo cominciato a fare invece solamente nell'Ottocento. Ma tutti la considerano il pomodoro un prodotto tipico italiano, quindi non è così? Non è così. così perché viene da lontano, diciamo, non nasce da noi, però rinasce da noi, viene adottato dall'Italia. E in fondo poi l'origine dei cibi conta poco, più che la nascita conta l'adozione, perché ci sono culture, come il caso dell'Italia del pomodoro, che adottano un cibo straniero, ma poi gli dedicano tanta cura che questo figlio da noi sboccia e dà dei risultati, diventa bello, bravo, buono, come nel caso del cibo, come forse non era stato in patria. E quindi forse in fondo proprio attraverso il cibo noi capiamo poi che la cucina, i sapori sono sempre una mescolanza, sono sempre un viaggio di andata e ritorno. E il pomodoro è proprio un immigrato, all'inizio un immigrato clandestino, perché quando arriva in Europa non viene neanche considerato un cibo. Era pericoloso, si diceva che forse fa male, era una pianta ornamentale, addirittura alla corte di Francia nel 600, alla corte del Re Sole, lo si regalava alle dame, quando si voleva corteggiare una donna si regalava una piantina di pomodoro, tant'è vero che il suo nome era pomme d'amour, pomo d'amore. È solo alla fine dell'Ottocento che il pomodoro diventa un cibo a tutti gli effetti, certo. Ma soprattutto la sua grande fortuna è quando incontra la pasta e la pizza. Infatti, e allora... perché c'è questo matrimonio, perché appunto la pizza in particolare, come arriva questo incontro? E arriva quando a Napoli a metà dell'Ottocento si comincia a fare la pizza, cioè questa focaccia cotta al forno che serviva per sfamare lo stomaco del popolo, che non aveva granché da stare allegro, tant'è vero che si diceva la pizza è il pronto soccorso dello stomaco, serve per arrivare a sera senza patire la fame. Quando ci va sopra il pomodoro c'è qualcosa di magico che fa bene sia alla pizza sia al pomodoro, e da allora questa accoppiata diventa un'accoppiata vincente, e la pizza dai vicoli di Napoli arriva ai quattro angoli del mondo e diventa il cibo, l'emblema stesso del cibo globale, un cibo di strada, un cibo povero che diventa però un mangiare da re. Ed è bella questa cosa di un prodotto clandestino che arriva in Italia, si abbraccia con la pasta e diventa il nostro cibo tipico. Ma Marino, posso chiederti, perché insomma, in questo grande bellissimo andirivieni potremmo dire che il mondo ha nutrito l'Italia con questi elementi come il pomodoro, poi però noi ci abbiamo messo del nostro attraverso l'invenzione, diciamo l'elemento culturale, e allora alla fine la dieta mediterranea, come la chiamiamo oggi, che addirittura è diventata patrimonio immateriale appunto dell'umanità, che cos'è? Un incrocio di natura e cultura, potremmo dire? Sì, è un incrocio di natura e culture. Come diceva Ansel Keys, il grande scienziato americano che a metà del Novecento inventò l'etichetta, la definizione dieta mediterranea, diceva che la dieta mediterranea è un regalo della natura, è un regalo che la natura ha fatto a una certa parte del mondo. Però anche in quel caso è una cosa bellissima, è un modo di mangiare tradizionale delle popolazioni dell'Europa meridionale, però a scoprire il nome è stato un americano. Ancora una volta c'è un andirivieni a riprova del fatto che quando le culture si prestano, si mescolano, danno il meglio di sé, isolandosi il peggio. Si sente appunto sempre di più, per fortuna, parlare di dieta mediterranea. Puoi spiegare ai nostri giovani ascoltatori quali sono gli ingredienti che fanno parte di questa bella famiglia? Certo, allora i carboidrati, quindi pasta, riso, pane integrale possibilmente, pomodoro e altre verdure, legumi, carne con moltissima moderazione, e frutta e verdura in abbondanza, sia cotta che cruda. Questo tipo di alimentazione 3 anni fa è stato considerato dalla FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di alimentazione, come il regime alimentare più sostenibile che si possa immaginare. Insomma, quindi vuol dire che è un ottimo equilibrio che fa bene al gusto e fa bene alla salute. Grazie davvero Marino, buon pomodoro. Grazie, buon pomodoro a voi. A presto, ciao. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Colombia. Lo sapevi che in Colombia puoi trovare quasi tutti i climi esistenti nel pianeta? Questo accade perché le condizioni ambientali non dipendono dalle stagioni, ma dalle altitudini. E il territorio colombiano ha una grande varietà di altitudini tra le sue regioni, che vanno dal livello del mare ai 5.000 metri d'altezza. Questa ricchezza climatica fa sì che la Colombia sia il secondo paese con maggior biodiversità per chilometro quadrato del mondo, con oltre 50.000 specie di flora e fauna. Vuoi sapere il nome di qualche pianta e animale tipico? Victoria amazzonica, Espeletia, Ibis, Airone, Egretta, Guacamaya, Rana, Piranha e Anguilla elettrica. Yuhu! E queste sono alcune delle cose che abbiamo imparato nella prima puntata di Terra in Vista. Che è meglio non mangiare le mandorle all'originale. Che la natura con il sole, l'acqua, l'aria e la terra è la migliore delle cucine. Che prima di arrivare nel carrello della spesa, gli ingredienti hanno fatto migliaia di chilometri. Che si possono addomesticare le piante e fare banane senza semi. Che se vuoi far colpo su una ragazza, devi regalarle una piantina di pomodoro. In vista, chiude qui la prima puntata. Beh, Telmo, Terra in Vista è bello, ti dà speranza, no? Qualcosa che vedi. Oggi abbiamo visto un pezzettino di questo pianeta chiamato Terra. Sì, abbiamo iniziato il nostro viaggio. E continuerà, saranno 10 tappe, quindi davvero tante parole da scoprire insieme. Tutto ciò lo potete riascoltare sul nostro sito radio24.it nelle pagine di Terra in Vista. Potete anche scriverci per porre delle domande, l'indirizzo di posta elettronica è terrainvista@radio24.it. Il programma è scritto con Margherita Ina e Silvia Righini, oggi alla parte tecnica Valeria Bernardi. Le attività pratiche invece sono state suggerite da Andrea Vico e Alessandra Falconi. E poi la nostra sigla, la sentite anche ora, sono i Matita, una band milanese di musicisti che suonano pennelli, matite, pennarelli su fogli di carta amplificati, e ci piace molto avere questa band come colonna sonora. Se volete conoscerli meglio, l'indirizzo è supermatita.org. Ancora ciao, ancora grazie, ancora Terra in Vista. La gallina e il chicco. Razzolando in un campo, una gallina un chicco di frumento vi trovò. Chi vuole seminarlo? Domandò a un maiale, a una gatta e a un topolino. Io no, io no, io no, le rispose quel bel trio. Va bene, disse lei, lo farò io. Quando il chicco una spiga diventò, chi la vuol falciare? Domandò. Io no, io no, io no, le rispose quel bel trio. Va bene, disse lei, lo farò io. Quando la spiga a casa fu portata, chi vuole macinarla? Domandò. Io no, io no, io no, le rispose quel bel trio. Va bene, disse lei, lo farò io. Quando pure fu pronta la farina, chi vuole biscottarla? Domandò. Io no, io no, io no, le rispose quel bel trio. Va bene, disse lei, lo farò io. Quando infine il biscotto fu sfornato, chi lo vuole mangiare? Domandò. Io, le rispose quel bel trio. No, concluse lei, lo farò io.